Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Come d'abitudine vi ricordo alcune informazioni di servizio. La prima riguarda il nostro nuovo sito radio24.it, dal quale potrete scaricare pressoché in tempo reale anche le puntate di tutte le nostre trasmissioni. Quindi chi non potrà seguirci la mattina presto, ma ringraziando Dio siete tantissimi, potrà farlo anche via podcast. Lì troverete anche i profili dei conduttori e i blog per chi lo ha. Il mio, lo sapete, Guardi o Ladri. Mi farà piacere, come sempre, se lo visiterete, se continuerete a visitarlo, anzi, perché devo dire che è molto frequentato. L'ultima informazione di servizio è quella relativa alla nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Proprio qui è arrivata una curiosa mail, ma poi vedrete che nel corso delle settimane tratteremo un altro caso analogo. Quindi sono due curiose segnalazioni lettori, oggi ne prendiamo in considerazione una, di un nostro radioascoltatore di Terno d'Isola, quindi ci troviamo in provincia di Bergamo, che fa presente un caso di abuso al contrario, o meglio, lui vorrebbe tanto pagare, e sentiremo adesso chi e come, ma il fornitore del servizio non si fa vivo e quindi l'abuso dovrebbe essere casomai fatto e segnalato dal fornitore di servizio, perché il servizio che riceve il nostro radioascoltatore non viene pagato. Una vicenda paradossale di cui ci occuperemo oggi, ma poi vedremo che continueremo ad occuparcene con un caso simile. Io do il benvenuto al nostro radioascoltatore Ivan Bonacina dalla provincia di Bergamo. Buongiorno Bonacina. Sì, buongiorno dottor Galullo. Allora, ci spieghi il suo caso abbastanza curioso. Niente, come ha detto lei, per assurdo io ho contattato proprio Radio 24 perché io voglio pagare Enel, ma non riesco praticamente. È una cosa, scusate se sorrido, è una cosa davvero curiosa. Ecco, ma da quanto tempo lei vuole pagare Enel e perché? Allora, praticamente per farla breve, noi abbiamo aperto l'attività nel 2003 e abbiamo chiesto l'allacciamento ad Enel. Poi nel 2006 abbiamo stipulato un nuovo contratto con, non so se si può dire, con Sorgenia. Sì, no, certo che si può dire assolutamente. Ci sembrava vantaggioso e abbiamo stipulato questo contratto. Poi un incaricato di Enel nel 6 aprile 2007 viene nel nostro laboratorio e ci presenta anche lui un altro contratto, ci sembra vantaggioso. E stipuliamo questo nuovo contratto che si chiama Prezzo Amico. Quindi nel 2007, in buona sostanza, visto che ci troviamo in un mercato, esatto, verosimilmente, le mie riserve sono enormi, sì, liberalizzato, c'è Enel che dice ma no, ritorna con noi, insomma, esatto, le fa un'offerta che lei ritiene congrua e interessante. Ricordiamo che il nostro radioascoltatore ha un laboratorio odontotecnico, è un odontotecnico, quindi l'uso dell'acqua, insomma, voglio dire, dell'energia, del gas, sì, non è una cosa da ridere, insomma. Certo. Ecco. Quindi a questo punto nel 2007 stipula questo contratto con Enel e qui che cosa succede? Niente, il 6 aprile 2007 firmiamo il contratto in presenza di questo incaricato e da qui comincia la nostra odissea, perché noi praticamente abbiamo disdetto con Sorgenia. Sì. E aspettavamo le bollette da Enel. Ecco, se voi poteste leggere la mail che ci ha inviato, ridereste insieme a me. Dico ridere sempre con il massimo rispetto, è meglio dire sorridere, perché è una vicenda paradossale, come dicevo prima. Scrive Bonacina: siamo disperati. Se avesse la bontà di segnalare il nostro caso, ne saremmo lieti. Forse solo lei riesce a smuovere le montagne. Grazie per la cortesa attenzione. Dunque, io montagne non ne smuovo assolutamente. Però mi fa piacere prendere in considerazione ovviamente le mail, perché se lavoro, se lavoriamo, se la stampa esiste è perché, e i media esistono, è perché esistono dei radioascoltatori, dei lettori. Quindi il rispetto per voi deve essere al massimo livello. E quindi si prende in considerazione questa mail. Senta Bonacina, prima di passare poi alla controparte, no? Volevo chiedere, insomma, dal 2003 al 2006, cioè negli anni in cui voi già avevate Enel come erogatore di servizi, avevate regolarmente pagato le bollette? No, fino al 2006 non c'è stato nessun problema, abbiamo pagato, arrivavano le bollette, non c'è stato nessunissimo problema. E poi improvvisamente, quando voi avete cambiato, e poi tornate ad Enel, il problema, diciamo così, è sorto. Esatto. Allora, io do il buongiorno e il benvenuto ad una persona che è già stata nostra ospite, il dottor Fosco Bellotto, che è responsabile della Customer Care di Enel Energia, cioè in buona sostanza è il responsabile dei rapporti di soddisfazione con i clienti. Buongiorno Bellotto. Buongiorno a lei. Allora, la vicenda è un po' paradossale, insomma, una volta tanto qualcuno vi insegue non per un disservizio, ovviamente io scherzo, ma perché vi vuole pagare, insomma, perché non volete i soldi del nostro radioascoltatore? Sì, mi permetta di fare, di raccontare in sintesi ciò che accade nel caso in cui viene stipulato un contratto nel mercato libero. Sì. Dopo la non usi parole grosse, mercato libero mi pare una parola grossa. Nel senso che nel mondo dell'energia ormai c'è il mercato libero dell'energia, in cui il cliente può scegliere un fornitore, oppure c'è quello che noi chiamiamo mercato tutelato, in cui il cliente accetta le tariffe, l'unica tariffa dell'autorità, e sta nel venditore, che è il venditore locale, che ha la rete locale. Sì, sì, no, ma lei la teoria la sa benissimo, e la pratica, che secondo me è un po' zoppicante. No, volevo un po' giustificare questo certo. fatto, perché noi abbiamo tutti gli interessi a portare i nostri clienti in Enel Energia. Certo, certamente. Dopo la stipula di un contratto, il venditore, per attivare la fornitura, deve richiedere al distributore il passaggio del cliente dal precedente venditore, e il distributore quindi deve verificare i dati anagrafici del cliente, la posizione del sito e l'oggettiva titolarità del precedente venditore. D'accordo. Nel caso in questione, noi abbiamo comunicato i dati che a noi risultano del signor Fabrizio Cataneo, credo sia il socio del signor Rivia Bonancini, okay, al distributore, allegando anche le fatture attestante il fornitore del momento, che risultava essere nella distribuzione all'epoca. Tale richiesta ci è stata rifiutata dal distributore, in quanto i dati non corrispondevano e il sito in questione risultava già acquisito nel mercato libero. Ecco, infatti sospettavo che poi alla fine il mercato libero creasse qualche problema, e non mi sbagliavo, perché poi alla fine c'è un rimbalzo tra gestori, distributori, produttori, e chi ne fa le spese alla fine comunque è il cliente, il consumatore finale. Ma diciamo che siamo agli albori del mercato libero. Assolutamente ragione. Quello che vorrei dire è che probabilmente contestualmente alla nostra stipula, ma invece un po' prima, è stata fatta con Sorgenia, però la fattura allegata, forse anche il nostro agente che è andato lì si è fatto dare una fattura del precedente venditore, i distributori hanno il compito di controllare, anche perché si potrebbe verificare di spostare un cliente, ecco, piuttosto che un altro. Ecco, ma adesso il quesito è, che si pone Bonacina, che mi pongo anche io se fossi al suo posto, ma dopo 3 anni che venite inseguiti, quando potrà finalmente pagare Bonacina? Ma soprattutto gli arriverà una mazzata tra capo e collo che probabilmente lo stordirà. Sì, io voglio fare una premessa. Questo ha comportato un disallineamento tra noi e il distributore, anche perché siamo un centinaio di venditori che parlano con altrettanti distributori. Sì. Quello che volevo dire io è che il signor Bonancini poi è passato con Enel Energia da settembre 2009, e prima è stato gestito da quello che definiamo il mercato di maggior tutela, Enel Servizio Elettrico. Sì, però adesso non mettiamo in mezzo troppe sigle. La domanda no. è quando io paga io e come la paga. La responsabilità di seguire il signor Bonancini anche Bonacina, sì, capiti, sia per il periodo di Enel Energia che anche per il periodo precedente, mi farò interfaccia con l'altra società per cercare di trovare delle modalità di pagamento concordando una dilazione nel tempo, perché l'energia è stata consumata, in qualche maniera deve essere pagata. Questo è doveroso. Di agevolarlo in tutti i modi, trovando la tariffa più ideale e anche concordando insieme una dilazione nel tempo. Va bene. Il minimo che io possa fare. No, ma questo qui è sicuramente una cosa che le fa onore, voglio dire, anche se, insomma, chissà quanti ce ne saranno in queste condizioni, quindi per uno che poi trova la strada di Radio 24 o di altri canali, chissà quanti poi invece questa strada non riescono a trovarla, quindi io invito chi fosse in difficoltà comunque a scrivere non tanto a me quanto ad Enel energia, perché avete capito di che cosa si tratta, insomma, di una bolletta che tarda da 3 anni e che adesso sarà bella corposa e quindi giustamente Enel si rende disponibile per trovare una rateizzazione. Allora, io ringrazio il nostro radioascoltatore, ringrazio Fosco Bellotto di Enel Energia, in studio Elisabetta Fosconi, in regia Paolo Corleoni, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.